Guarda, la rassegna è già la seconda edizione. L'idea è un'idea che del sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna, Fulvio Macciardi, è quella di provare a raccontare l'opera lirica, spettacoli in Castellone e nelle stagioni del Teatro Comunale, a un pubblico che non necessariamente conosce o frequenta la musica lirica. E per farlo abbiamo pensato che la maniera migliore potesse essere quella di affidare queste narrazioni, le narrazioni di testi alla lirica, ad artisti che apparentemente, dico apparentemente perché poi ci sono state delle grandi sorprese, sono lontani dal mondo della lirica, quindi artisti, diciamo, dell'area della musica pop, ma davvero a 360 gradi nella sua accezione più vasta. Ecco, infatti tra gli ospiti possiamo citare ad esempio Bianconi, che sarà il prossimo, questo mercoledì, sì, 7 febbraio, poi ci sarà Truppi, ci sarà Frank High Energy, ci sarà Elio, insomma nomi appunto molto popolari della musica italiana. Come avete selezionato, ecco, gli ospiti e le opere a cui, come dire, li avete accomunati, ecco? Ma allora, le opere ovviamente erano appunto, sono le 10 opere nel cartellone della stagione lirica del Teatro Comunale. Devo dirti, guarda, molto sinceramente, in maniera proprio molto così limpida, le scelte degli artisti sono state fatte sulle basi di mia stima personale nei confronti degli artisti, e anche così è andata alla, diciamo che abbiamo prima scelto gli artisti e poi abbiamo chiesto sulla base dei testi, delle opere, scusa, in cartellone al Teatro Comunale, a quale opera loro volessero essere abbinati. Quindi la scelta l'hanno un po' fatta loro, gli artisti che io volevo, ovviamente, insomma, la scelta iniziale di artisti era più ampia, poi abbiamo dovuto incastrare esigenze, disponibilità, però insomma in linea di massima più o meno gli artisti erano tutti quelli che volevo, e tra l'altro ce ne sono ancora due che verranno annunciati, che sono quelli del 16 ottobre e del 26 giugno per il trittico pucciniano, su quali stiamo lavorando. Come ti dicevo, artisti che parlano, esprimono linguaggi musicali molto diversi tra loro, ai quali non abbiamo chiesto di essere degli esperti d'opera, anche se poi appunto qualche sorpresa anche nella scorsa stagione, come ti dicevo, c'è stata. Ecco, infatti sono curiosa poi di sapere quali saranno, diciamo, i focus delle chiacchierate che vi farete con questi artisti. Parlerete, sì, di come la lirica può ancora essere contemporanea, come può parlare di, certo, tematiche contemporanee. Guarda, allora, assolutamente sì, hai colto perfettamente, diciamo che il tema centrale, il focus è assolutamente questo, cioè raccontare la contemporaneità della lirica, e soprattutto raccontare la contemporaneità dei temi delle opere liriche, perché io non sono un esperto di musica lirica e me sono accostato a questo linguaggio musicale davvero da poco e lo trovo straordinariamente affascinante, e i temi sono dei temi immortali, magari molto classici, insomma l'amore, le passioni, i tradimenti, ma anche le rivolte sociali, le ribellioni, che vengono portati in scena con questi allestimenti magnifici, ed è stato davvero interessante vedere come questi artisti, quelli che noi portiamo, alla fine sono tutti, guarda, perfettamente a loro agio, ma davvero. E poi sai, un'altra grande soddisfazione è che sentire persone, ragazzi, giovani che magari si occupano di musica appunto pop, di pop piuttosto che di elettronica, che dire, e mi è capitato più volte dirmi: ah, grazie a questi incontri mi sono appassionato alla musica lirica. Allora vuol dire che un po' il nostro obiettivo lo abbiamo raggiunto. Ecco, tra l'altro un'altra cosa che mi piace sottolineare è che poi questi incontri sono gratuiti, quindi veramente aperti a tutti e tutti, anche, no, a tanti studenti che popolano questa città. Guarda, sono rigorosamente gratuiti su prenotazione. E sai qual è l'altra cosa bella? Che siccome gli artisti sono in qualche maniera, non so come dire, decontestualizzati, no, rispetto alle musiche che, delle quali loro si occupano, alla fine si crea un'atmosfera assolutamente amichevole, per cui, cosa che ovviamente nei concerti non può mai capitare, alla fine sono tutti lì disponibilissimi con i ragazzi, con le persone che vengono a sentire le loro parole, per chiacchiere, conversazioni. Cioè, non ti ripeto, adesso è appena iniziata con Dardust la seconda edizione, ma ne abbiamo già fatta una l'anno scorso, cioè non è mai successo che un artista dopo sia scappato, ok, insomma, erano tutti lì, perché evidentemente l'essere messi a confronto con questi temi che non sono i loro come dire, li mette probabilmente molto a loro agio e sono davvero delle chiacchiere in assoluto relax. Bene, Pierfrancesco, grazie mille per averci raccontato qualcosa di più appunto sulla rassegna Parliamo d'Opera. Ricordo che domani, mercoledì 7, ci sarà appunto il secondo appuntamento con Bianconi, come citavo anche prima. Assolutamente, Francesco Bianconi che ci racconterà il Trovatore e il suo amore e la sua passione, cosa che io non conoscevo, siamo sentiti al telefono per Giuseppe Verdi. Ore 18:30, non so se ci siano ancora dei posti, ma ci sono poi comunque delle liste d'attesa, per cui vi aspettiamo.